I personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. La storia di oggi inizia in un luogo molto lontano, e non solo geograficamente, perché è un mondo diverso, è un mondo che ha poco a che fare con gli esseri umani, è un mondo con le sue abitudini, le sue regole. Stiamo parlando della giungla, del regno degli animali, dove gli uomini non sono ammessi, dove l'intrico di alberi, di piante nasconde una diversa specie che regna sovrana sul proprio territorio, fino a quando un nuovo combattimento non deciderà altrimenti. È un mondo duro, ma è anche un mondo con la sua giustizia, con la sua etica, con delle regole che sono chiare non solo per gli animali, ma anche nei confronti degli uomini che premono ai confini. La legge della giungla, che non stabilisce niente se non c'è la sua ragione, proibisce a tutti gli animali di mangiare l'uomo, a meno che essi non lo uccidano per insegnare ai loro figli. E allora devono cacciare fuori dal territorio del branco o della tribù. La vera ragione di questo fatto è che all'uccisione dell'uomo segue, prima o poi, l'arrivo degli uomini bianchi in groppa agli elefanti, armati di fucile e accompagnati da centinaia di indigeni, con gong, razzi e torce. E allora tutti la scontano nella giungla. La spiegazione che gli animali ne danno fra loro è che l'uomo è il più debole e il meno difeso di tutti gli esseri viventi, e che non è leale e degno di un vero cacciatore attaccarlo. Dicono anche, ed è vero, che i mangiatori di uomini diventano rognosi e perdono i denti. E quindi è un bene che gli animali e gli esseri umani rimangano separati, perché in questo modo ognuno rimane padrone del suo territorio, ognuno conduce la sua vita senza creare problemi agli altri. Però capita anche che questa regola ferrea venga infranta, ed è da uno di questi casi che inizia la nostra storia di oggi, la storia di Mowgli, il cucciolo di uomo e il bambino che si perde nella giungla, che la giungla cresce, alleva nel rispetto della propria legge, restituendolo al suo mondo da uomo adulto, forte e non debole, un amico degli animali. La storia di Mowgli comincia una sera in cui la tigre Shere Khan sconfina nel territorio controllato dai lupi per dare la caccia degli esseri umani. Il suo obiettivo è una giovane coppia con un piccolo bambino. L'assalto però fallisce. I genitori fuggono e lasciano dietro il figlioletto. Così papà lupo e mamma lupa, che insieme ai loro cuccioli stanno muovendosi nei loro territori, si trovano improvvisamente di fronte il cucciolo d'uomo indifeso. Sono incuriositi dal bambino e però decidono di proteggerlo dagli attacchi della tigre che lo vuole mettere sotto i denti. Invece di lasciarlo al suo destino, lo portano con loro. Se lo tengo? Certo che lo voglio tenere. Sta a cuccia, piccolo ranocchio, o Mowgli, poiché Mowgli il ranocchio ti voglio chiamare. Verrà il giorno in cui tu caccerai Shere Khan come lui ha cacciato te. E così Mowgli viene adottato dalla famiglia dei lupi. Come ogni nuovo lupacchiotto, anche se è un piccolo uomo, deve essere presentato davanti al gran consiglio del branco, presieduto dal grosso lupo grigio Akela, che guida il branco, il leader. E ci sono dei malumori però che serpeggiano quando Raska, mamma lupa, spinge delicatamente il bambino al centro del cerchio per presentarlo a tutti gli altri lupi, perché è un caso anomalo. In questi casi la legge della giungla stabilisce che quando sorge una controversia sul diritto che ha un cucciolo di essere accolto nel branco, almeno due membri di esso, due che non siano i genitori, devono prendere la parola in suo favore. Così Akela chiede a tutti i lupi riuniti chi abbia voglia di assumersi questa responsabilità. Ha bisogno di due padrini, ha bisogno del quorum per salvare Mowgli, e sorprendentemente a questo appello risponde un orso. L'orso Baloo è l'unico animale di razza diversa cui è permesso di partecipare al consiglio dei lupi. L'ospite prende subito le difese di Mowgli. Il cucciolo d'uomo? Io parlo per il cucciolo d'uomo. Un cucciolo d'uomo non può far nessun male. Io non ho il dono dell'eloquenza, ma vi dico la verità. Lasciatelo correre con il branco e accoglietelo con gli altri. Io stesso lo istruirò. Con Baloo dalla sua parte, adesso a Mowgli serve un secondo garante. In quel momento, tra i cespugli che circondano la radura, si avvicina un'ombra nera e Bagheera, la pantera, che però è conosciuta, rispettata in tutta la giungla per la sua saggezza, e anche lei prende le difese del bambino, si assume la responsabilità di occuparsene e di proteggerlo dalle grinfie di Shere Khan. E improvvisamente Mowgli, il piccolo indifeso essere umano solo abbandonato dalla famiglia, trova nella giungla una famiglia ancora più grande, formata da animali di grande coraggio ma soprattutto di grande saggezza. È una fortuna, perché lo attendono delle prove molto lunghe e difficili da superare, e poi lo attende la prova principale: crescere. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il piccolo Mowgli prende lezioni di vita da Baloo, l'orso bruno che è diventato il suo maestro nella giungla. In generale, insomma, i lupacchiotti basta un insegnamento base per sopravvivere. È un insegnamento che riassumerei in questi versi: zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nell'oscurità, orecchie che sentono il vento dalle tane, denti bianchi e aguzzi. Però Mowgli ha bisogno di altri consigli, perché anche se sta crescendo coi lupi, lui è un bambino, ha sicuramente un'intelligenza acuta, però gli manca qualcos'altro, quindi deve sopperire con un'intelligenza che comincia a soddisfare le migliori aspettative del suo tutor. Nella giungla ci sono tante cose da imparare, come non disturbare i pipistrelli di giorno, come riconoscere un ramo fradicio da uno solido, come cacciare in un territorio che non è il tuo, come rispettare le api nell'alveare. Mowgli è un bravo discepolo, poi sa correre veloce, nuota, caccia con astuzia, e da lontano anche la pantera Bagheera controlla i suoi progressi, è contenta. La legge della giungla è feroce, bisogna imparare da subito a cacciare e a difendersi dai pericoli, però è una legge giusta quella della giungla. Mowgli sta imparando dai suoi due insegnanti tutto quello che c'è da sapere per diventare un bravo abitante della giungla. Ogni tanto però sbaglia anche lui. E un giorno, per esempio, chiacchierando del più e del meno, Mowgli rivela a Baloo e a Bagheera che è andato a trovare il popolo delle scimmie, i Bandar Log. E per i due animali è una brutta cosa, sì, perché le scimmie vivono al di fuori da ogni legge, rubano quello che mangiano, non hanno una lingua loro, ma si servono delle parole che colgono quando ascoltano e spiano, volando di ramo in ramo. Insomma, è un popolo borderline, non ci può essere amici delle scimmie. E per Mowgli è una brutta notizia, perché le scimmie con lui sono state gentili, gli hanno offerto ricovero dopo una caduta, amano giocare anche senza uno scopo preciso, stanno erette come lui. Insomma, darwinianamente Mowgli sente dell'attrazione per le scimmie, sono le più simili all'uomo, però il popolo della giungla non le ama, non si occupa di loro. Forse proprio per attirare l'attenzione di Bagheera e di Baloo, un giorno le scimmie, i Bandar Log, decidono di rapire Mowgli. Per ritrovarlo, i due decidono di chiedere aiuto a Kaa, che è un pitone rupestre che non sopporta anche lui le scimmie. È da giorni che il pitone non mangia, l'offerta di poter pranzare con le sue prede è sufficiente per convincerlo a seguire Bagheera e Baloo. Il nostro cucciolo è nelle mani dei Bandar Log ora, e sappiamo che di tutto il popolo della giungla essi temono soltanto Kaa. «Hanno paura solo di me e ne hanno ben ragione», rispose Kaa. «Pettegole, stupide e vane, vane, stupide e pettegole sono le scimmie. Ma un cucciolo d'uomo nelle loro mani non può ritenersi fortunato. Si stancano delle noci che colgono e le buttano via. Portano in giro un ramo per mezza giornata con l'intenzione di farci grandi cose e poi ne fanno due pezzi. L'omiciattolo non è da invidiarsi». Intanto Mowgli è stato portato dalle scimmie tra i ruderi di una vecchia città indiana. Durante il tragitto incontra Kil, l'avvoltoio, che dall'alto osserva le scimmie saltare di ramo in ramo con la loro preda. Mowgli lo chiama con la parola maestra, lo supplica di avvertire i suoi insegnanti, perché le scimmie lo stanno portando alla città abbandonata conosciuta come le Tane Fredde. Una volta giunto alla città, col passare dei giorni, il cucciolo d'uomo comincia a capire quello che Baloo cercava di spiegargli sul popolo delle scimmie. Tutto quello che ha detto Baloo dei Bandar Log è vero. non hanno legge, non hanno grido di caccia, non hanno capi, non hanno niente tranne che parole sciocche e piccole mani svelte da ladruncoli. Così se mi faranno morire di fame o mi ammazzeranno qui, la colpa sarà solo mia. Ma bisogna che cerchi di ritornare alla mia giungla. Balù mi picchierà sicuramente, ma tutto è meglio piuttosto che correre scioccamente dietro alle foglie di rosa come fanno i Bandarlog. Quella notte Kill l'avvoltoio ha fatto, diciamo, da drone, ha segnalato dall'alto gli spostamenti, ha scoperto che siamo nella città abbandonata, così Bagheera e Ka arrivano. Bagheera sa che le scimmie sono codarde, non oserebbero mai sfidare una pantera e un pitone, però sa anche che sono tante, il numero è il coraggio dei vili, e anche lei probabilmente di fronte a 100 scimmie dovrebbe soccombere, però quando si tratta di Mowgli bisogna affrontare anche dei rischi. La battaglia tra Bagheera e Baloo, che la sta seguendo, e le scimmie è durissima, la pantera è costretta a chiedere aiuto, una cosa che non succede mai. A questo punto arriva Ka, il pitone, prende in mano la situazione, inizia a disegnare col corpo delle spire davanti alle scimmie, a sibilare, a guardarle coi suoi occhi gialli. Le scimmie sono irretite dai suoi movimenti, non riescono più a muoversi, e perfino Baloo e Bagheera si sentono attratti dal magnetismo del pitone. Bandarlog, disse la voce di Ka finalmente, potete muovere un piede o una mano senza un mio ordine? Senza un tuo ordine non possiamo muovere né piedi né mani, Ka. Bene, fate tutte un passo verso di me. Le file delle scimmie avanzarono ondeggiando come attratte da una forza irresistibile, e anche Baloo e Bagheera fecero un passo avanti automaticamente insieme a loro. Più vicino, sibilò, e tutte si mossero di nuovo. Mowgli posò le mani su Baloo e Bagheera per portarli via, e le due grosse belve si riscossero come se fossero state svegliate da un sogno. «Tieni la mano sulla mia spalla», sussurrò Bagheera. «Tienicela, o altrimenti mi sento spinto a ritornare verso Ka». E così Mowgli può abbandonare le tane fredde mentre Ka si gode la sua vittoria, il suo carisma magnetico nei confronti di tutti, e se si gode la vittoria pronto a cenare con una delle scimmie. E intanto si torna da Mamma Lupe, dal resto della famiglia, però prima viene il tempo del pentimento e poi quello del castigo. Il bambino chiede perdono per non avere ascoltato le raccomandazioni di Baloo e di Bagheera, che per punizione gli dà una mezza dozzina di colpetti al posto di una vera e propria bastonata, perché è troppo contenta di averlo salvato. C'è anche questo di bello nella legge della giungla, che la punizione salda ogni conto e non lascia rancori. Mowgli appoggiò la testa sulla groppa di Bagheera e si addormentò così profondamente che non si risvegliò nemmeno quando fu deposto a fianco di Mamma Lupa nella sua caverna. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mowgli, perfetto esempio del fanciullo selvaggio, è l'incarnazione del bambino libero, del bambino innocente che torna alla natura. Lui cresce credendosi un lupo perché è coi lupi che è cresciuto ed è stato svezzato. Vive secondo la legge della giungla, una legge giusta ma spietata, perché nella giungla bisogna uccidere per non essere uccisi e per sopravvivere. Mowgli deve imparare anche a combattere. Quando sarà grande dovrà anche uccidere, però conosce anche la pietà, l'amicizia, la lealtà, il senso di appartenenza e di amore per i suoi compagni e per la sua famiglia adottiva, che in questo momento è la sola famiglia che ha. La sua è una storia di scoperta, di crescita, la storia di un bambino speciale che unisce le qualità degli uomini a quelle degli abitanti della giungla. Ma Mowgli ha un nemico terribile, è vero, lui cresce sotto la protezione dell'orso Baloo e della pantera Bagheera, però il suo nemico è la tigre Shere Khan, che non dimentica l'affronto che ha subito quando il lupo Akela, alla testa del consiglio del branco dei lupi, si era rifiutato di dargli il bambino. Vuole vendicarsi, comincia a sobillare i lupi più giovani contro il capo, comincia a insinuare, insomma, il dubbio che Akela sia troppo vecchio vecchio, qua bisogna prendere il potere, dice. Le trame di Shere Khan non stanno sfuggendo all'occhio attento di Bagheera, che è preoccupata per Mowgli, perché Bagheera sa che il giorno in cui Akela morirà il bambino sarà in grande pericolo. Per questo un giorno lo chiama e gli dà un consiglio prezioso. Sento in cuor mio che quando Akela sbaglierà il colpo alla prossima occasione, e ad ogni caccia gli riesce sempre più difficile bloccare a terra il daino, il branco si rivolterà contro di lui e contro di te. Terranno un consiglio di tutta la giungla alla rupe. E allora... ho trovato! Va subito giù alle capanne degli uomini nella valle e prendi un po' del fiore rosso che loro coltivano laggiù, così che quando verrà il momento tu possa avere un amico anche più forte di me, di Baloo e dei lupi del branco che ti vogliono bene. Vai a procurarti il fiore rosso. Il fiore rosso non è altro che il fuoco. Gli animali non hanno il coraggio di chiamarlo col suo vero nome, lo temono troppo. Solo lui, il cucciolo d'uomo, lo conosce, è in grado di usarlo senza restare scottato. Per questo Mowgli si spinge fino ai confini della giungla, fino a un villaggio di umani per procurarsi qualche tizzone ardente. E col suo bottino si presenta al consiglio del branco, che è pronto per trovare un nuovo capo. Ma è invece di un lupo qualsiasi a prendere la parola è Shere Khan, che liquida in due parole il vecchio Akela. È un rottamatore Shere Khan, la tigre arriva direttamente a quello che le sta a cuore. Perché ci vogliamo confondere con questo pazzo sdentato? È destinato a morire. Il cucciolo d'uomo invece è vissuto troppo. Popolo libero, egli era pasto per i miei denti fin da principio. Datemelo. Sono stufo di questa commedia dell'uomo lupo. Sono 10 stagioni che turba la pace della giungla. Datemi il cucciolo d'uomo, o altrimenti io rimarrò a cacciare qui e non vi lascerò un osso. È un uomo, è figlio di un uomo, e io lo odio a morte. La situazione sta precipitando. I lupi giovani sono d'accordo con Shere Khan, si uniscono a lui, chiedono di consegnare Mowgli alla tigre. E Akela parla per l'ultima volta come un capo. E ricorda a tutti che il cucciolo d'uomo è cresciuto con loro, rispettando la legge della giungla, e per questo merita di far parte del popolo dei lupi. Ma nessuno lo ascolta. A questo punto Mowgli capisce che è rimasto solo. Solo lui può difendersi dagli attacchi della tigre e dei lupi. A questo punto improvvisamente libera il fiore rosso, il fuoco. Con un tizzone ardente incendia un cespuglio e l'intero branco si ritrae spaventato, e Mowgli ne approfitta per tenere il suo ultimo rabbioso discorso ai suoi antichi fratelli. Bene, vedo che siete dei cani. Vi abbandono per tornare alla mia gente, se quella è la mia gente. La giungla è chiusa per me. Io devo dimenticare il vostro linguaggio e la vostra compagnia. Ma voglio essere più generoso di voi, perché sono stato in tutto, tranne che nel sangue, vostro fratello. Vi prometto che quando sarò un uomo fra gli uomini, non vi tradirò come voi avete tradito me. Lui ha messo rabbia, ha messo forza nella sua risposta al branco dopo l'attacco col fuoco e la fuga della tigre, ma prova un'amarezza terribile, si sente stringere il cuore, è distrutto. Chiede alla saggia pantera Bagheera cosa gli stia succedendo. Scoppiò in singhiozzi mentre le lacrime cominciarono a scorrergli giù per le guance. Che cos'è? Che cos'è? Disse. Non ho voglia di lasciare la giungla e non so cos'abbia. Sto per morire, Bagheera. No, fratellino, queste sono solo lacrime come quelle degli uomini, rispose Bagheera. Adesso vedo che sei un uomo e non più un cucciolo d'uomo. La giungla è chiusa per te da ora in poi. Lasciale cadere, Mowgli. Non sono che lacrime. Allora Mowgli si sedette e pianse come se gli si spezzasse il cuore, e non aveva mai pianto prima in vita sua. Ora, disse, andrò fra gli uomini, ma prima devo dire addio alla mia mamma. Le lacrime di Mowgli sono il segnale che Mowgli è un uomo ed è stato costretto a crescere nello spazio di una sola notte. Tutte le sue certezze svaniscono con l'alba, si rende conto che non appartiene più a quel mondo, non è un animale, non è un abitante della giungla, anche se il destino ha voluto che lui non appartenesse neanche al suo mondo d'origine. È una specie di naufrago sperduto tra due rive, rifiutato da entrambe, a disagio in entrambi gli scenari. Lui deve solo raggiungere una spiaggia per poter ricominciare in un luogo tutto suo, però desidera di poter abbracciare ancora una volta Mamma Lupa, sua madre. E dopo aver lasciato il branco, Mowgli arriva in un villaggio, viene trovato da una donna che anni prima aveva perso il figlio. La donna si convince che il cucciolo d'uomo sia il figlio disperso e a lungo cercato. Meswa è il nome della donna, adotta Mowgli. Il marito di Meswa è l'uomo più ricco del villaggio, il bambino riceve dei bei vestiti, del cibo, un letto vero per dormire, tutte cose belle ma strane per lui, che di notte preferisce uscire dalla capanna per incontrarsi con suo fratello Bigio, uno dei lupacchiotti con cui è cresciuto. Le notti passate con fratello Bigio sono i momenti migliori della nuova vita di Mowgli. Per lui è difficile adattarsi alla vita del villaggio, non sa come si gioca con gli altri bambini, non capisce le differenze di casta che sono così importanti nella organizzazione sociale degli indiani, vuole imparare la lingua degli umani, però ha difficoltà a esprimere i suoi pensieri, le dinamiche degli uomini sono completamente diverse. Il prete del villaggio addirittura è costretto a consigliare a Meswa di mandare Mowgli a pascolare i bufali nei campi per lasciarlo vicino allo scenario che più gli è caro. Tra le cose difficili da sopportare per Mowgli c'è quella di sentire i racconti della giungla che i vecchi fanno attorno al fuoco, specialmente quando a parlare è uno che si chiama Buldeo, e quando racconta le abitudini delle belve a Mowgli viene da ridere perché sa che sono tutte bugie, soprattutto quando parla di Shere Khan. Mowgli sa che la tigre non è un argomento buono per le storielle, è un animale pericoloso soprattutto per lui, e infatti un brutto giorno fratello Bigio, il suo lupacchiotto preferito, insomma quello che lo ricorda più volentieri, lo avverte che Shere Khan non ha smesso di cercarlo, questa volta è veramente decisa ad ammazzarlo. Il piano di Shere Khan è di aspettarti alla barriera del villaggio stasera. Aspetterà te e nessun altro. Per ora si è nascosto a dormire nel gran burrone asciutto. Ha mangiato oggi o caccia a corpo vuoto? Chiese Mowgli, poiché la risposta significava vita o morte per lui. Ha ammazzato all'alba un cinghiale e ha anche bevuto. Ricordati che Shere Khan non è mai stato capace di digiunare nemmeno per amor di vendetta. Mowgli deve pensare a una strategia per battere Shere Khan. Gli viene in mente di usare la mandria dei bufali che porta a pascolare. Si fa aiutare a dividere la mandria in due da fratello Bigio e dal vecchio Akela, che arriva in rinforzo dopo essere stato chiamato dal lupacchiotto. Bisogna bloccare la tigre in mezzo ai tori e alle vacche per impedirle di muoversi, e lo stesso Mowgli, a cavalcione di uno dei tori, si lancia contro la tigre. L'impeto della carica trascinò in aperta pianura ambedue le mandrie, che cozzarono scalpitando e sbuffando. Mowgli sfruttò un momento propizio, si lasciò scivolare giù dal collo del toro e si diede a menar bastonate a destra e a manca. «Svelto, Akela! Dividili, disperdili, o si ammazzeranno fra di loro! Cacciali via, Akela! Vai, vai!» «Figliuoli miei, piano adesso, piano! È tutto finito!» Akela e fratello Bigio correvano avanti e indietro a mordere le zampe dei bufali, e benché la mandria avesse già girato per rigettarsi alla carica giù per il burrone, Mowgli riuscì a far deviare il toro verso i pantani e gli altri lo seguirono. Shere Khan non aveva più bisogno di essere calpestato, era morto e già gli avvoltoi accorrevano sul suo corpo. La vendetta di Mowgli finalmente si è compiuta. Il suo desiderio è quello di portare la pelle del nemico sconfitto sulla rupe del consiglio per far vedere a tutti di cosa è stato capace. Però i suoi piani vengono rovinati da un uomo, dal vecchio Buldeo, che vuole ottenere la ricompensa offerta dal governo per chi avesse ucciso la tigre. E Buldeo ruba la pelle a Mowgli. Così Mowgli chiede a Akela di mettere in fuga il cacciatore ferito nell'onore. Buldeo torna al villaggio, racconta l'impresa del ragazzino come se fosse il risultato dell'incantesimo di uno stregone. Dice a tutti che Mowgli è in realtà un diavolo, e così quando lui torna viene accolto dal lancio delle pietre. Ancora una volta non riesce a inserirsi in nessuno dei due, diciamo, contesti sociali. Viene rifiutato anche da quelli che lui credeva i suoi simili. L'unica che cerca di difenderlo è Messua, ma ormai il ragazzo ha preso la sua decisione. Non gli rimane altra scelta che proseguire il suo viaggio da solo, con al suo fianco solo il Lupacchiotti, i suoi fratelli. Il branco degli uomini e il branco dei lupi mi hanno cacciato. Ora caccerò da solo nella giungla. E così a Mowgli rimane un'unica amica, la giungla, quella che lo aveva accolto quando non sapeva neanche camminare, quella che gli aveva insegnato tutto, il bene, il male e tutto quello che c'è di mezzo, i fiori, gli alberi, il cielo, le stelle e le leggi immutabili della natura e dei rapporti tra gli animali. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto e anche di persone che si sono divise tra il mondo duro, ma tutto sommato eticamente ammirevole, degli animali della giungla e il mondo più complicato degli uomini, con le sue complesse dinamiche. E il volo di Mowgli sarà sicuramente stato comunque nobile, perché è la ricerca di noi stessi. Ognuno di noi può dare il colpo d'ala che ti può portare a volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, sui social del Falco e il Gabbiano. Insomma, avete mille modi per cercarmi e cercarci. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.